Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 12 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di mercati, facciamo un po' il punto della situazione. Forse sarà stato un caso, ma un caso fortuito. Oggi i listini sono tutti in progresso, tutti segni più per quel che riguarda l'Europa, dopo una chiusura positiva anche per quel che riguarda l'Asia. E allora io vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, quindi le vostre domande, i vostri dubbi, che io girerò ai miei ospiti, che oggi con molto piacere ospito in studio, perché spesso siamo collegati telefonicamente e tutto diventa più difficile, anche un po' meno diretto. Invece oggi sono con me il dottor Luca Pirazzi, responsabile di Advance Advisor. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E il dottor Giorgio Giovannini, country manager per l'Italia di Anderson Global Investors. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno anche lei e grazie per l'invito. E allora subito andiamo nel dettaglio e vediamo che cosa sta succedendo. Parigi è in progresso del 2,41%, Francoforte del 2,57%, un punto tondo è il progresso per quel che riguarda Londra. A Milano, Milano è la piazza migliore, il FTSE MIB guadagna il 3,07%, il FTSE All Share guadagna il 2,84%. Sul listino principale questa mattina recupera tutto il comparto bancario, con Popolare di Milano, che in questo momento è il titolo migliore, guadagna il 7,47%, Unicredit guadagna il 7,09% dopo il profondo rosso dei giorni scorsi. Ricordiamo che ieri è partito l'aumento di capitale. Ferragamo tra i titoli migliori fin dalle prime battute, più 6,82%, Intesa San Paolo guadagna 6,5 punti. Bene, molto bene anche Fiat, che oggi guadagna il 5%. Ci sono più di un'indiscrezione di stampa che danno un probabile asse a 3 in futuro, e si parla già di Peugeot, quindi si guarda alla Francia. E poi ancora in fondo al listino il titolo migliore a Finmeccanica, cede uno 0,65%, mentre è riuscita a recuperare Montepaschi di Siena, che in questo momento guadagna uno 0,3%, ma è stata sospesa per circa 45 minuti in asta di volatilità in poco dopo l'avvio di seduta, perché segnava un fortissimo calo. Per quel che riguarda i cambi, recupera leggermente l'euro sul dollaro, 1,2794 in questo momento, mentre per quel che riguarda il differenziale tra BTP e Bund con scadenza a 10 anni siamo sempre intorno ai 530 punti base, mentre ieri è tornato a risalire anche leggermente il differenziale per le scadenze a 5 anni. Allora, noi partiamo quindi con il nostro approfondimento di oggi, che ripeto è relativo ai mercati. Ci sembrava giusto fare un punto su quello che sta succedendo e su quello che ci dobbiamo aspettare, sempre che ovviamente si possano fare previsioni a brevissimo. 800 24 00 24 per intervenire, 349 238 6666 per i vostri sms. Ora la nostra scheda. Di certo, per i mercati finanziari non si prevedeva un inizio semplice del 2012, ma nessuno probabilmente si sarebbe aspettato di collezionare in pochi giorni già così tanti grattacapi e sui piani più diversi. Le prime due sedute dell'anno nuovo, in realtà, si sono chiuse con il segno più. Un entusiasmo solo apparente, con i volumi ridotti degli scambi che potrebbero aver tratto in inganno. Da mercoledì tutti i fantasmi dell'anno passato si sono ripresentati. In primis lo spread e la paura per i debiti sovrani, insieme alle preoccupazioni sulla solidità delle banche, che devono tenere il passo dettato dall'UE e rispettare i parametri, a dir poco severi, dell'EBA, l'autorità bancaria europea. In Italia tutta l'attenzione è per Unicredit, che ieri ha dato il via all'aumento di capitale da 7,5 miliardi. Dal 4 gennaio, il giorno in cui è stato comunicato il prezzo di 1,943 euro per le azioni di ricapitalizzazione, con uno sconto del 43%, il titolo ha iniziato a precipitare e il valore ad avvicinarsi a quello delle azioni offerte. E quello di Piazza Cordusio non sarà con ogni probabilità l'unico istituto italiano a dover affrontare nel 2012 un aumento di capitale. MPS, Banco Popolare e UBI potrebbero essere i prossimi. Ma non tira un'aria buona neanche dall'est Europa. Con il fallimento dell'asta di titoli di Stato ungheresi, che ha riportato in superficie, nel caso ce ne fosse stato bisogno, i timori sui debiti sovrani europei. Per Budapest, su cui alcune banche italiane sono oltretutto notevolmente esposte, si è già arrivati a parlare di un vero e proprio rischio default. Insomma, a quanto pare siamo di fronte ad una vera e propria burrasca d'inizio anno, con gli investitori, soprattutto i più piccoli, che si interrogano, preoccupati di come potranno gestire i propri risparmi nei prossimi mesi. E allora subito un aggiornamento proprio relativo all'Ungheria. L'Ungheria ha venduto agli investitori 45 miliardi di fiorini, circa 181 milioni di dollari, titoli di Stato trimestrali, a fronte di una domanda sostenuta pari a 123,4 miliardi. Il tasso medio dell'asta è salito al 7,98% dal 7,67% dello scorso 3 gennaio. Anche in questo caso qualcosa si sta muovendo, magari in positivo. Vediamo che cosa succederà anche per l'Ungheria. Però io subito volevo chiedere al dottor Giovannini, perché abbiamo sentito nella nostra scheda, forse tanti grattacapi nessuno se li aspettava già da inizio anno, ma è vero, perché insomma l'anno si è chiuso male e si è aperto nello stesso modo. Ricordo ai radioascoltatori che a metà febbraio del 2011, mi pare di ricordare, il FTSE MIB guadagnava in doppia cifra, intorno al 13-15%, per cui la risposta è nessuno se l'aspettava, ma questo non è indicativo di come andrà l'anno, questo inizio periodo. Ricordiamoci che come sempre dopo le feste ci sono scambi rarefatti, molto spesso violenti su e giù, soprattutto sui mercati azionari. Tendenzialmente i primi due giorni sono andati bene, una settimana terribile, poi improvvisamente torna il sereno. Dovremo aspettare ancora alcune settimane, se non qualche mese, prima di capire se effettivamente i problemi reali di struttura dell'Europa, dell'euro, del sistema bancario stanno trovando una soluzione, o seppure ci avviamo a un 2012 che sarà ancora forse più difficile del 2011. Chiudo dicendo che invece io mi aspetto un anno probabilmente di tranquillità, cioè di attesa da parte dei mercati. Il 2011 è stato inaspettato, o comunque dai più inaspettato, direi in alcuni casi violento, al ribasso. Probabilmente a queste valutazioni si attenderà di capire più che cosa la politica riuscirà a fare in una logica non solo europea ma anche di economia mondiale. Sicuramente un anno in cui appunto la politica, e soprattutto per l'Europa, avrà grande influenza anche per quel che riguarda i mercati e quindi l'andamento, però forse un anno in cui, se così sarà, di tranquillità, ci potranno essere delle buone opportunità anche in Europa. Questo lo chiedo al dottor Pirazzi. Ma la palla è alla politica, giustamente, quindi è la politica che deve dare delle risposte. Sembra che vi siano dei motivi di ottimismo, perché i paesi più importanti hanno ripreso a parlarsi con un certo costrutto, le posizioni che erano più lontane su molti temi si stanno avvicinando, la volontà di trovare una soluzione è evidente, perché è evidente a tutti che questo è un gioco in cui se perdono perdono tutti e se vincono vincono tutti, Germania inclusa. Quindi credo che anche il governo tedesco ripenserà ad alcune sue posizioni, tornerà su alcune idee alle quali si è fortemente opposto, e credo che questo aiuterà a trovare un consenso. Mi sembra che il grande cambiamento rispetto al 2011 da questo punto di vista sta nel fatto che, mentre l'anno scorso i protagonisti della politica europea erano sicuramente due e soltanto due, cioè la Francia e la Germania, adesso l'Italia è tornata a sedersi con una certa autorità, senza sgomitare, ma con una certa autorità è tornata a sedersi al tavolo sul quale si fanno i discorsi importanti e sul quale si prenderanno le decisioni. Questo credo che sia molto importante non solo per l'Italia, ma anche perché forse è più facile arrivare ad un accordo concreto sulle soluzioni con una discussione a tre che con un ping pong tra la Francia certo, e la Germania. E la Germania. Per quel che riguarda proprio le influenze e l'importanza della politica, per tornare sulla notizia di apertura relativa all'Ungheria, perché poi diciamo i dati fondamentali dell'Ungheria, il rapporto deficit-PIL, non sono così drammatici come poi invece possiamo pensare dall'asta precedente che era andata molto male e un pericolo concreto che è quello dell'Ungheria. Beh, il rapporto deficit-PIL, debito sul PIL dell'Ungheria non è drammatico come quello italiano, sono intorno all'80%, però questo non salvaguardia nessuno, nel senso che se il governo prende delle strade sbagliate, oggi i mercati sono particolarmente sensibili e quindi la reazione è immediata. D'altra parte hanno un fabbisogno finanziario immediato che va al di là del rapporto debito-PIL, per cui se c'è crisi di liquidità si può anche avere indebitamento zero, ma se nessuno ci presta certo. dei soldi falliamo. Quindi oggi il fallimento, diciamo il default ungherese è una possibilità concreta ed effettivamente scongiurarlo è possibile solo se il governo si mette d'accordo col Fondo Monetario Internazionale, che significa fare una conversione a U rispetto alla strada che ha preso negli ultimi mesi. Certo, è ovviamente sotto la lente tutta l'opera del Premier Orban, perché l'Europa si chiede se poi questa sia una democrazia o una dittatura, viste anche le ultime leggi adottate dal Parlamento ungherese. Quanto deve spaventare il pericolo ungherese l'Italia e le banche italiane? Beh, le banche italiane sono evidentemente esposte ad una economia ungherese che tra l'altro dipende, questo è un aspetto positivo, dipende molto da quella tedesca, quindi finché la Germania avrà una crescita positiva questo aiuterà alcuni paesi dell'Europa dell'Est, tra cui l'Ungheria. È chiaro che se il paese dovesse scivolare nel caos dal punto di vista finanziario e a quel punto anche dal punto di vista politico, perché evidentemente il danno per i cittadini ungheresi di un eventuale default sarebbe gigantesco, lo stanno già apprezzando adesso con lo scivolamento della loro valuta che nel giro di pochi mesi ha perso il 20%. Ricordiamo che c'è una consistente parte della popolazione ungherese che ha contratto mutui casa in franchi svizzeri, che quindi oggi vede il proprio mutuo ingigantirsi anziché ridursi. È chiaro che quindi se il primo ministro non arriverà ad un accordo con l'Europa e col Fondo Monetario Internazionale e il paese scivolerà nel disastro finanziario, anche dal punto di vista di politico le ripercussioni saranno forti. Chiaramente lo saranno per tutte le società esposte verso quei paesi, tra cui anche le banche italiane. Io credo che con la stessa elasticità con cui Viktor Orban ha cercato di modificare le regole del gioco democratico in corsa e ha mostrato questa insofferenza verso la divisione dei poteri, credo che con la stessa elasticità riuscirà a fare una elegante marcia indietro, perché anche la sua sopravvivenza politica è legata Dipende. All'accordo col Fondo Monetario Internazionale. Mi sembra che abbiamo già avuto delle avvisaglie sulla stampa di questi, diciamo, di questa elegante, come lei l'ha definita, inversione di certi comportamenti, di certe affermazioni e anche di certe misure adottate dal Parlamento ungherese. Torniamo a noi. Allora, questo è un anno che appunto si è aperto con delle sedute piuttosto difficili. Facevamo delle considerazioni prima di entrare in onda in diretta. Oggi Milano guadagna il 3%. È una vera e propria boccata d'ossigeno, dottor Giovannini, o è solo un momento in questa settimana in cui fortunatamente siamo capitati anche noi che oggi ci occupiamo di mercati? Ma allora, il listino italiano è chiaramente dipendente dai titoli del settore finanziario, in particolar modo del settore bancario. Ora, non voglio definirlo un rimbalzo, perché poi c'è tutta quei soliti discorsi, il rimbalzo del gatto morto e via, quelle campane che sembrano sempre suonare così a lutto, ma è chiaro che dopo tre giorni di ribassi forse mai visti sul listino, sul settore bancario. Nel momento in cui c'è una ripresa, si fa un più 6, un più 7 a fronte di un meno 30 avvenuto in tre sedute, è chiaro che il listino in generale riprende, ma torno al discorso iniziale. Cioè, non dobbiamo guardare le prime due settimane o il primo mese, dobbiamo guardare con una logica più a medio termine o comunque più su base annuale. Tutto sembrava ok l'anno scorso in gennaio e poi ci siamo ritrovati, anzi sembrava ancora buono, discreto, in bilico a giugno, fino a giugno e poi è bastato un trimestre per portare tutto il settore, o se vogliamo il mercato finanziario, nel dramma. È una corsa sul lungo. Quello che è chiaro è tutto il settore, tutto il mondo occidentale, le economie occidentali hanno troppo debito. Questo debito va smaltito. Quindi non è soltanto un discorso dell'Italia o dell'Ungheria o della Francia o del Giappone e via. Tutte hanno troppo debito. Questo debito va gestito e va in qualche modo ridotto. Nel momento in cui si riduce il debito, è chiaro che anche i mercati finanziari si muoveranno forse al di là di euforie improvvise o di tracolli improvvisi, in una direzione dove l'obiettivo finale è quello di cercare di ridurre il più possibile la volatilità e di dare maggiore stabilità a un mercato alla fine mondiale del risparmio, senza il quale le economie occidentali non vanno da nessuna parte. Le 12:32 minuti, allora io ringrazio il signor Antonino che ci ha gentilmente aspettato, lo saluto, buongiorno, benvenuto, ci dica. Grazie, buongiorno a voi. Sentivo di conversioni a U e sentivo anche di riferimenti macroeconomici. Una delle conversioni a U mi sembra siano nel dibattito che state sviluppando voi, anche che leggo sui giornali, che ascolto su altre radio, eccetera, eccetera. E cioè che improvvisamente, diciamo da un paio d'anni a questa parte, dopo Lehman Brothers più o meno, improvvisamente il mondo dell'economia, degli imprenditori, degli operatori economici e finanziari riscopre la politica, quando per anni, direi una ventina, ci hanno spiegato che il PIL lo facevano le imprese, che la politica economica non serviva, che il fine tuning era una cosa roba vecchia del passato, eccetera, eccetera, eccetera. Un approfondimento su questo punto e, diciamo così, anche una presa di coscienza da parte degli operatori finanziari non sarebbe, economici e finanziari, non solo finanziari, non sarebbe fuori luogo, secondo me. Allora, signor Antonino, lei non ci crederà, ma proprio mentre c'era la pausa noi facevamo una riflessione, diciamo per certi versi simile, e cioè che forse in questi ultimi mesi soprattutto la politica e la finanza si accompagnano molto più da vicino rispetto a quanto accaduto prima dei grandi crack, e parliamo quindi del 2008 di Lehman Brothers. Dottor Giovannini. Sì, sì, i miei complimenti al radioascoltatore, anche perché io stesso durante la pausa ho detto ma mi sembra di parlare più come un politico che come un operatore finanziario. Ha perfettamente ragione, lo lascio però con un dubbio che è anche un mio dubbio. Lavorando per una società inglese frequento direi spesso il mondo anglosassone, e anglosassone intendo anche il mondo americano, comunque la cultura anglosassone. Spero veramente che loro stiano cambiando, perché parliamoci chiaro, i problemi finanziari nascono comunque dal mondo anglosassone, da un certo modo di vedere la finanza distaccata dalla politica. Si diciamo sta tornando indietro reale, proprio, dall'economia reale, bene, giusto. Si sta tornando indietro a parole, comunque sembra esserci un nuovo vento. Per noi è molto più facile, perché noi comunque siamo sempre stati immersi come cultura più ancorati, diciamo, nella logica politica. Speriamo che questo accada, cioè qui si tratta solo di osservare, valutare e aspettare. C'è poco che possiamo fare qui da Milano o comunque dall'Italia. L'Europa stessa può fare molto di più, ma non è che può incidere più di tot su questo mondo, che è ancora mondo dominante dal punto di vista finanziario. Il signor Giovanni da Roma, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Ci dica. Volevo principalmente dire ai vostri tecnici che stanno lì da voi come mai questi poveri azionisti, piccoli risparmiatori con l'Unicredit ci hanno perso tanto senza poi essere remunerati, perché c'è gente che ha pagato 8, 7, 5, io l'ho pagato qualcosa come più o meno quei prezzi che gli ho detto. Oggi vengo a sapere stamattina da una radio che il signor Profumo come liquidazione ha preso 32 milioni, volevo sapere se era vero o no, ho capito male io, e questo è quello che ci lascia veramente non disturbati, ma siamo avvelenati, perché non è possibile che, o sono le banche che rovinano questi piccoli risparmiatori. Allora, la ringrazio, a lei. Buongiorno signor Giovanni. Allora, magari usciamo un attimo dal perimetro Unicredit. Per quanto riguarda Profumo, questa è notizia già vecchia, lo si sapeva già nel momento in cui ha lasciato la banca quale sarebbe stata la sua liquidazione. Io invece vorrei fare un discorso un pochino più generale con il dottor Pirazzi, perché sicuramente Unicredit paga dazio, lo pagheranno forse altre banche italiane, vediamo negli ultimi giorni c'è una forte pressione anche su Monte Paschi di Siena, però in fondo queste sono richieste che sono state fatte alle banche italiane, ma anche ad altre banche europee in generale, dall'EBA, l'autorità bancaria europea. Se questo è l'inizio, qui dobbiamo solo aspettarci peggio, il peggio del peggio. Ma in effetti l'intervento dell'EBA, le richieste di capitalizzazione avanzate dall'EBA, devo dire che mi lasciano piuttosto perplesso. E credo che questa sia una cosa che tipicamente succede quando c'è un certo vuoto di certezza, un certo vuoto di potere, la debolezza dei poteri consolidati, nuovi poteri, nuove autorità come l'EBA, che è un'autorità abbastanza poco rodata, diciamo. Assurgono a livelli di intervento, livelli di potere che forse non sono commisurati alla capacità di esercitarlo. Le richieste di capitalizzazione che l'EBA ha recentemente annunciato per le banche europee vanno al di là, a mio modo di vedere, di quello che sarebbe opportuno in una fase come questa. Perché poi le pagano anche e soprattutto i piccoli, cioè perché il signor Giovanni ci ha chiamato e ci ha detto io le ho pagate tanto, adesso perché sono... creano più danno del vantaggio che invece dovrebbero generare. E quindi credo che su questo corra fare una riflessione. Certi interventi in momenti soprattutto in cui i mercati sono estremamente nervosi, momenti delicati, devono essere molto meglio commisurati. Non ci si può muovere come un rinoceronte in una cristalleria, e oggi i mercati sono delle cristallerie, bisogna stare molto attenti. Molto attenti. Questo poi per quel che riguarda l'Italia, ma sappiamo che tante banche francesi sono chiamate a ricapitalizzare, tante banche spagnole, e su quel fronte ne vedremo forse delle belle, speriamo di no. Il signor Virginio da Roma, oggi la capitale è molto gettonata, io ovviamente sono contenta essendo romana. Ana, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Ci dica. Io volevo soltanto qualche notizia su quello che sta succedendo al Monte Paschi. Allora. Perché quando c'è da le banche, cioè la borsa va male, il Monte Paschi va peggio. Quando le altre banche rientrano di qualche punto, Monte Paschi non gli riesce a rientrare. Cosa sta succedendo e che fine hanno fatto i nostri soldi? Allora, dunque, cercando ovviamente di essere abbastanza generici su questo, perché è molto difficile, giro la domanda al dottor Giovannini. Intanto posso dirvi che Monte Paschi in questo momento guadagna 0,5 punto percentuale. È sicuramente una banca che sta attraversando giornate di grande difficoltà, perché gli è stato chiesto molto dall'EBA, e qualche mese fa Monte Paschi aveva detto che non, la banca non sarebbe ricorsa a un aumento di capitale. Allora, non ha senso parlare di Monte Paschi in 30 secondi, certo. Però per rispondere al radioascoltatore, deve tenere a mente tre punti. Monte Paschi ha fatto forse la più grossa acquisizione, o l'ultima grandissima acquisizione in Italia con Anton Veneta, sì. Pagandola a prezzi che allora parevano di mercato e che invece adesso, in un diverso contesto economico e di mercato stesso, sembrano spropositati. Comunque, quando si paga tanto qualcosa, chiaramente successiva, nel periodo immediatamente successivo si paga ad Azio. Si sconta. È chiaro che questa acquisizione, giusto o buona che sia, sarà solo il tempo, e il tempo in questo caso può essere veramente tra 5-10 anni, capiremo se quell'acquisizione ha portato i benefici. Un primo punto. Secondo punto, questa storia dell'EBA, che ricordiamo non è collegata alla Banca Centrale Europea, è molto importante, cioè tutti discutono di un organismo che non è collegato alla nostra Banca Centrale. Solo una digressione: se in America la finanza deve un po' rientrare vicino alla politica, ecco che in Europa la politica non esca dai suoi confini naturali, quindi, diciamo. O che capisca come funziona anche il mondo finanziario. Secondo punto. Terzo punto, effettivamente c'è un pochino di confusione nella governance del Monte Paschi, nel senso che si è letto sui giornali ed è acclarato questo problema della fondazione, della necessità di fare cassa, di mantenere il controllo sulla banca. Quindi è sicuramente una banca che in questo momento l'investitore istituzionale, o se volete lo speculatore, chiamiamolo così, cioè non cerca, non guarda, piuttosto magari la vende, ne esce per cercare altri investimenti che sembrano avere una maggiore chiarezza dal punto di vista operativo. Io spero che questo cambiamento di management, ho letto sui giornali che sarà approvato, appunto verrà nominato il nuovo direttore generale, in realtà sia come un primo scrollone che lo stesso consiglio d'amministrazione, i grandi azionisti della banca stanno cercando di ridare al gruppo, anche perché queste quotazioni sono assolutamente ridicole, e se guardiamo alla storia, ma non solo, all'attività, al business caratteristico del gruppo Montepaschi di Siena. A proposito di quello che diciamo dell'Europa, perché io vorrei capire, e spero che appunto il dottor Pierazzi mi possa aiutare in questo, se l'Europa a questo punto possa fornire delle opportunità di investimento per i piccoli, medi investitori, perché forse ci sono dei prezzi interessanti e forse questo è un buon momento per muoversi in Europa, sempre ovviamente con molta cautela e sempre conoscendo bene ciò che si va a toccare, a comprare nell'eventualità. Conoscere bene quello che si va a comprare è estremamente difficile per un risparmiatore che ovviamente ha altre occupazioni, altri interessi, spende il proprio tempo diversamente che analizzando bilanci, studiando società e via dicendo. Quindi io credo che innanzitutto vada reiterato il messaggio che gli investimenti vadano sempre effettuati in maniera mediata attraverso strumenti di investimento che sono gestiti da persone che si dedicano completamente in maniera professionale a questo, e questo credo che sia il primo punto. Il secondo punto è che purtroppo la maggior parte degli investitori sono già coinvolti in investimenti importanti per quanto riguarda, diciamo, la percentuale dei loro risparmi sui mercati, e quindi difficilmente hanno la possibilità di reperire nuove risorse per investire ulteriormente. Tutti coloro che sono usciti o parzialmente usciti dai mercati, quindi che hanno magari disinvestito in passato, che per la preoccupazione di quello che stava succedendo hanno deciso di passare alla liquidità e aspettare tempi migliori, probabilmente hanno oggi la possibilità di comprare, anzi sicuramente hanno oggi la possibilità di comprare oggetti finanziari, quindi titoli azionari o obbligazionari a prezzi estremamente convenienti. Tuttavia occorre sempre tener presente che nessun prezzo è buono in assoluto. Io, se vogliamo ancora tornare sul caso di Unicredit, ricordo quando poco tempo fa qualcuno diceva sotto un euro Unicredit lo compro tutta la vita, oggi l'equivalente di quel prezzo è intorno a 0,25. Quindi i prezzi non sono mai buoni in assoluto. Questo bisogna ricordarlo. Le 12.46, allora io saluto il signor Remo da Treviso, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, sono Remo di Treviso, ascolti, una domanda semplice, e se non fosse stata ricapitalizzata Unicredit, Monte dei Paschi, il rating attuale delle nostre banche sarebbe in pericolo oppure rimarrebbe stabile? Io la ringrazio e buona giornata. Prego, prego, dottor Giovanni. Ma, cioè, in pericolo, già tanto le hanno downgradate, sì. anche se hanno aumentato. Anche cioè, prima. Anche qui si dovrebbe fare una trasmissione su il reale valore, la reale posizione di queste società di rating. È chiaro che adesso va di moda parlarne male, come prima invece guai chi le toccava. Mi ricorda Greenspan, ormai tutti i problemi sono di Greenspan, era 5 anni fa o 6 anni fa il miglior banchiere del mondo. Sì. Bisogna ritrovare anche per queste società di rating un loro ruolo mediano. Certo, avere un rating, avere una valutazione indipendente può sicuramente aiutare l'investitore. Comprare o vendere una società in maniera sconsiderata unicamente solo perché il rating passa da AA ad AA più oppure sì. meno, secondo me è una follia di mercato. Allora, Marco da Milano, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, grazie di ospitarmi nella sua trasmissione. Ci dica. Io volevo chiedere cosa ne pensava il suo ospite di un'Europa senza l'Inghilterra, che ogni volta che si cerca di prendere delle decisioni comuni si intraversa, perché evidentemente ha sempre degli interessi diversi dai paesi più manufatturieri come l'Italia e la Germania. Allora, io giro questa domanda al dottor Pierazzi ricordando che, e poi dopo al dottor Giovannini, ricordando che sì, l'Inghilterra effettivamente rispetto a noi che siamo più manifatturieri è un paese che vive di servizi nella maggior parte della composizione del suo PIL, e che forse ultimamente tutte queste, diciamo, questi dissidi tra Cameron, Merkel e Sarkozy sono anche un po', diciamo, di natura più politica che non pratica, nel senso che poi anche qui evidentemente si cercherà di raggiungere o quantomeno gli obiettivi sono un po' diversi da quelli dichiarati. Non so se lei è d'accordo con la mia visione di questo momento storico e del clima che si respira in Europa. Ah, sicuramente è vero, la Gran Bretagna si sente profondamente diversa dall'Europa continentale, lo è per storia, lo è per la sua lunga storia del Commonwealth, suo stato l'ultimo grande impero effettivamente dell'Europa. La distingue dagli altri paesi, ha una economia che è profondamente diversa da quella degli altri paesi europei, ha un legame molto forte con gli Stati Uniti, che quindi anche da questo punto di vista la distingue dagli altri paesi europei. Un giorno o l'altra sarà chiamata a scegliere, perché mentre possiamo escludere che diventi l'ennesimo Stato degli Stati Uniti, è indubbio se possa essere uno Stato a pieno titolo della comunità europea, e poi forse un giorno, se ci sarà ancora, della moneta europea, ma o di là no, di qua può decidere, altrimenti rimarrà da sola. Un giorno o l'altro verrà messa con le spalle al muro, più che dai politici, dalla politica europea, dalla storia. Dottor Giovannini, anche lei una considerazione su questo argomento? No, proprio riporto un sondaggio che ho fatto quando ero a Londra. Io ero a Londra in quei giorni in cui Cameron si è tirato indietro, e quindi è stato naturale per me parlarne certo. con i colleghi e andare direttamente al sodo, cioè ha fatto bene o ha fatto male. C'è abbastanza uniformità, nel breve ha fatto bene, nel senso che deve proteggere gli interessi certo. della City. La City conta quasi per il 10%, esatto, lì. Nel lungo ha fatto male, non ci sono dubbi. Nel lungo, come diceva il collega, c'è sicuramente un problema. L'Inghilterra negli ultimi 10-20 anni si è dedicata alla finanza e all'immobiliare, ha quasi dimenticato l'economia reale. Ora, se si esce da questa crisi rilanciando l'economia reale, l'Inghilterra magari può soffrire di meno in questo momento, ma nel lungo termine ha di fronte delle sfide molto complicate. Allora, io voglio girarvi un sms che è arrivato al 349-238-6666, perché mi sembra un po' indicativo anche di quanto abbiamo detto finora. Ci chiede il signor Antonio: ma le nostre banche non erano quelle più solide? Perché in tanti molti analisti avevano detto sì, ma non vi preoccupate, le nostre banche sono quelle più solide, più legate al territorio. Se vogliamo, qualcuno l'aveva detto anche con un'accezione negativa, dicendo sono rimaste quelle più provinciali, un po' più chiuse nel territorio italiano, a parte Unicredit poi ovviamente. Ma io rispondo, non ha senso dire sono le più solide rispetto a che cosa? Più solide rispetto a Royal Bank of Scotland? Boom, ormai è nazionalizzata, per cui... Il problema non si pone più. Secondo me il problema è che anche le nostre, ormai le banche, come tutti i soggetti in Europa, non vivono più solo per conto loro, cioè devono essere viste in una logica comunitaria e nel caso della finanza in una logica di finanza mondiale. Allora, prese così per sé, ci sono molti punti di favore per le nostre banche, ma quando le mettiamo in un momento di crisi mondiale, in una sovraesposizione con i titoli governativi che in questo momento vengono visti quasi come il veleno per un bilancio, sì, diventano a quel punto deboli, ma al tempo stesso non sono né deboli né solide, devono muoversi in un percorso economico, in un ambiente economico che sta cambiando e quindi dove non è più il giocare per conto proprio, dire io sono forte, benissimo, ma se tutti i tuoi contendenti sono deboli, certo, tu hai rapporti con loro e per cui non sei forte neanche tu. Dottor Pierazzi. Ma l'affermazione secondo cui le banche italiane sarebbero più forti delle altre banche europee nasce dal fatto che le banche italiane erano meno investite in titoli tossici, cosiddetti, sì, tossici. Anche nel caso per esempio dei titoli di Stato greci, sì, c'era una esposizione molto inferiore rispetto, certo, a quella rispetto delle banche francesi per tedesche, esempio, o tedesche. Questo è vero, però bisogna aggiungere due cose. La prima è che l'EBA di nuovo ha deciso che la valutazione dei titoli di Stato deve essere fatta non al valore nominale ma al prezzo del mercato del momento, ed essendo le banche italiane molto molto investite sui titoli italiani, di Stato italiani, è chiaro che questo hanno pagato profondamente e significa delle forti perdite di capitale da parte loro. Il secondo punto è che è vero che le banche italiane sono forse più di altre esposte all'economia reale e quindi alla situazione delle aziende del paese, però la situazione delle aziende del paese è molto più difficile rispetto a quella delle aziende tedesche o delle aziende francesi, e questo sicuramente pesa sui bilanci delle banche. Certo. A questo proposito io le giro la domanda della signora Barbara da Vicenza, che prego di essere veramente telegrafica. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per ospitarmi. Io volevo formulare una domanda molto semplice. Volevo sapere chi c'è dietro l'EBA. Ci sono stati, ci sono banche d'affari, speculatori, grossi finanzieri. E allora, cioè, chi c'è che fa, grazie, muovere e che decide questo? Grazie, grazie mille, signora buongiorno. Barbara. E allora, visto che il dottor Pierazzi ne ha parlato e l'ha più volte citata, io giro a lei questa domanda. Allora, l'EBA è l'Associazione Europea delle Banche. E il problema è proprio questo, di una scarsa legittimazione di questa autorità rispetto al potere che può esercitare. E in un momento come questo, in cui può dire delle cose decisive sulla salute delle banche, è molto ascoltata dai mercati. I mercati oggi guardano soprattutto a chi è in grado di mettere in evidenza i pericoli, più che a coloro che sono in grado di individuare delle soluzioni o dare dei messaggi tranquillizzanti. Quindi la signora ha messo l'accento su un aspetto molto importante. Le autorità devono avere una legittimazione molto forte per esercitare un potere così rilevante. La signora Maria da Roma, buongiorno, benvenuta, anche a lei chiedo di essere telegrafica. Buongiorno, io volevo una semplice informazione. Siccome sono anziana, ho qualche risparmio all'Unicredit sul conto corrente, volevo sapere soltanto se sono sicuri o corro qualche rischio. Sono sicuri, sono, signora, sicuri. Ecco, abbiamo cercato di tranquillizzare anche la signora Maria da Roma. Questi risparmi sul conto corrente, almeno per il momento, diciamo, sono sicuri. Beh, non, no, c'è nessun... anche il fondo di, certo, di interbancario di garanzia, quindi non mi c'è pare nessun fino a problema euro da questo punto di vista. E allora, il tempo a nostra disposizione sta veramente per terminare. A me resta il tempo di ringraziare e salutare i nostri ospiti, il dottor Giorgio Giovannini, country manager per l'Italia di Anderson Global Investors. Benvenuti. Grazie per essere stato. E il dottor Luca Pierazzi, responsabile di Advance Advisor, grazie anche lei per essere stato con noi. Grazie. In redazione un grazie a Marco Lombardo, in regia Roberto Scaltritti. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.